9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 23 di febbraio. Anche oggi l'argomento è più o meno obbligato, e quindi Libia, tentando di capire alcune delle cose che giorni dopo l'esplosione anche di questo paese a poche miglia di mare da noi ancora non sono chiare, perché mentre la protesta in Egitto, in Tunisia, insomma, aveva assunto una fisionomia, una narrazione anche che, come sempre, vista l'articolarsi di quelle società, la loro storia, la loro stratigrafia sociale che ci è nota, sappiamo in realtà dal di dentro in questi anni come diversamente paese per paese hanno articolato le forze dell'opposizione, i rapporti tra i regimi e i militari. La Libia è sempre stato un grande punto interrogativo, al di là delle semplificazioni sulla persona del Rais Gheddafi e del suo clan. Ecco che questo paese collassa, o collassa almeno per metà nella sua parte della Cirenaica, e giorno dopo giorno noi stessi, l'informazione si trova il più delle volte sprovvista di quegli elementi necessari di lettura dall'interno, di conoscenza dall'interno di quel paese, di come davvero funziona ed è articolato, al di là dell'apparenza, delle dichiarazioni roboanti, tanto quando le cose vanno bene che quando le cose vanno male, del Rais. Ed ecco che quindi alcune domande di fondo, secondo me, non sono chiare per niente a chi ci ascolta a casa, a chi ha poco tempo da dedicare, ma chiede alcune domande di fondo. E iniziamo con alcuni aspetti della sicurezza, per inquadrare meglio con chi ne sa più di noi e professionalmente segue la sicurezza dei paesi a noi vicini e lontani, perché ne fa questione professionale. E con noi all'inizio di questa trasmissione Andrea Margelletti, che è il presidente del Centro Studi Internazionale, può stare con noi pochi minuti. Io lo saluto, lo ringrazio, buona giornata. Sono io che la ringrazio, e naturalmente grazie per l'ospitalità. E allora iniziamo subito con due o tre domande di quelle in cui chiediamo di illuminare. Allora, possibile mai che noi da giorni e giorni leggiamo che ci sono unità militari libiche che stanno con i rivoltosi, che non stanno con i rivoltosi? Negli altri paesi capivamo bene le forze armate, fino a che punto stavano a guardare, poi intervenivano, invece poi diventavano, come in Egitto, garanti di una transizione per le nuove presidenziali. Ma lì le forze armate sono coccolate da Gheddafi e quindi sparano, intervengono, e c'è qualcuno adesso che si rifiuta di fronte agli ordini troppo pesanti di mitragliare la folla con gli aerei, che non si riesce a capire se davvero poi siano stati usati o meno, o di bombardare con le navi Bengasi, e anche lì non si capisce. Due navi militari sono andate a Malta, però qui per il momento di filmati di bombardamenti non li abbiamo visti. Oppure invece le forze armate sono praticamente estranee al regime, sono altre le forze della repressione. Che cos'è questa legione straniera di cui si legge sui giornali, Margelletti? Direi che quello che ha appena detto, come al solito, è saggio e dà la chiave giusta di lettura. Le forze armate libiche, a differenza ad esempio di quelle egiziane, sono forze armate che risentono in maniera determinante delle influenze tribali, e quindi fanno una partita che non è quella del statuale, ma è una partita dei propri referenti, delle tribù alle quali appartengono, tribù che in buona parte hanno abbandonato Gheddafi al suo destino. Gheddafi ha da sempre un gruppo, una sorta di legione straniera araba, se lei mi passa questo termine, che fa il lavoro sporco e che è composta da elementi del Mali, del Chad e del Niger, che questa legione, che venne creata intorno alla seconda metà degli anni 80 per la guerra in Chad nell'87, ed è poi una realtà che è stata utilizzata da Gheddafi, dal regime di Gheddafi, per combattere delle proxy wars in altri posti dell'Africa. Questa sorta di banda di lanzichenecchi è molto probabilmente la responsabile dei principali eccidi che in questo momento si stanno svolgendo in Libia. Per quanto attiene al problema dell'informazione, lei ha ragione, a differenza delle altre rivolte in Tunisia, in Egitto, ma anche generalmente che si stanno, le manifestazioni di protesta che stanno animando il Nord Africa, il Maghreb e il Medio Oriente, noi non abbiamo una chiara prospettiva, non c'è una visione indipendente, abbiamo informazioni da fonti che possiamo prendere per buone, ma non sono certamente fonti paragonabili minimamente ai media occidentali, perché anche all'Arabia o al Jazeera sono, come posso dire, players, giocatori della partita, cosa che non potrebbe essere invece la Rai, Sky, CNN o altre reti televisive occidentali. Quindi dobbiamo in qualche maniera fidarci dell'informazione del regime, che in qualche maniera evidentemente veicolata, ma anche dell'opposizione, che è altrettanto inquinata o veicolata. Anche, ecco, c'è un'altra notizia: unità dell'esercito di Jabal al-Akhdar passano con manifestanti, questo sarebbe nella, vicino alla città di Al-Baida è nella parte sì, di Cirenaica, anche qua. Però posso chiederle, dall'idea che si è fatto delle unità dell'esercito e dei diplomatici di importanti sedi, il vice responsabile delle Nazioni Unite e alcuni in altri grandi paesi, quanto anche in quel caso il criterio di lettura di quello che sta avvenendo anche nella diplomazia è quello tribale, oppure all'interno di quella specie di finzione che era lo Stato libico ci sono comunque tra virgolette partiti, per così intenderci, sui quali fare sponda? No, credo che in questo momento la chiave di lettura sia tribale. Molti si stanno muovendo per cercare di avere contatti più approfonditi con quelle realtà, perché l'esercito di Gheddafi in effetti non può essere comparato a quelle degli altri paesi, proprio perché, ripeto, c'è una dipendenza fortissima dalle tribù. In particolare le due principali, la Wafal e le Zintan, le due principali tribù sono in questo momento apertamente in contrasto con Gheddafi, che può contare in maniera sicura soltanto sulla Kadhafa, cioè sulla sua tribù. Per il resto la situazione è a dir poco fluida. Non c'è un rapporto come per esempio negli Stati Uniti, tra Stati Uniti e esercito egiziano, che non è soltanto gli Stati Uniti, sono il naturale fornitore dell'hardware, dei mezzi da combattimento delle forze armate egiziane, ma anche, come posso dire, istruttori, fornitori di dottrina, formatori dell'establishment militare. La Libia è un paese che ha vissuto lunghi anni di isolamento internazionale, e questo isolamento internazionale si riflette ovviamente anche nei rapporti tra il leader Gheddafi e le forze armate, che sono legate a lui da un rapporto di, come posso dire, di relativa dipendenza, perché nel momento in cui sono saltati gli assetti di sharing delle risorse tra lui e le altre tribù, le forze armate si stanno dividendo tra chi lo supporta e chi invece ha scelto di chiamarsi fuori. Adesso le faccio una domanda difficile, ma che a me inquieta particolarmente. Io ho sempre avuto l'impressione che Gheddafi, dipinto come il cane matto, no? La famosa frase reganiana, in realtà sia una personalità estremamente raffinata, molto più raffinata di questa mille volti tra il pagliaccesco, a volte sembra un drogato fuori di sé, altre volte, ecco. Allora, detto questo, mentre le crisi degli altri paesi hanno assunto delle direzioni, le cui tappe e i cui esiti finali ancora non conosciamo, ma insomma hanno avuto dei passaggi comprensibili, chiari, netti, così è in Egitto, così è stato nel caso di Ben Ali, vedremo in altri paesi delicati come il Bahrain, sede di, insomma, basi di importanti per gli americani, per gli equilibri geostrategici. Ma invece, non è che per caso, dopo che in questi giorni i media occidentali hanno detto oramai Gheddafi è diventato come Milosevic, fa sparare sulla sua gente, eccetera, nella realtà la storia libica insegna, chi ci ha provato ha dovuto mettere in conto tempi lunghi, finti controlli territoriali che non andavano mai da nessuna parte, come nel caso della nostra amministrazione coloniale e così via. E così Gheddafi, dopo le torri, ha capito qual era la reazione, è uscito dai paesi che erano nelle liste nere, ha consegnato quel poco che restavano delle sue armi di distruzione di massa, è tornato buono, adesso ha un altro volto. Ma non è che per caso riesce ancora una volta a metà tra la repressione brutale, il volto che torna quello della caserma Zazia, dove fu colpito dagli aerei, dove morì una delle sue figlie adottive, non è che riesce ancora una volta a farcela? Guardi, Gheddafi è sicuramente pittoresco, ma non è certamente matto. Lei ha citato Milosevic correttamente, mi assumo in tutte le mie responsabilità, anche in occasioni dove abbiamo condiviso spazi insieme, lei ed io, e io sostengo che lui si è messo moralmente sullo stesso piano di Milosevic e di Saddam Hussein. Il punto è un altro, non è più una questione di capacità di rigenerarsi politicamente. Il punto chiave è che gli Stati Uniti, l'attuale amministrazione Obama, ha ufficialmente preso una posizione molto netta di sostegno ai movimenti popolari. Questo l'ha detto non soltanto il Presidente, ma l'ha detto il Segretario di Stato in ogni occasione, mi riferisco soprattutto alla vicenda egiziana, e di supporto anche agli altri movimenti nel resto del mondo, nonostante addirittura siano andati un po' avanti, perché la situazione in Bahrain per gli Stati Uniti è estremamente critica e preoccupante. Non riesco a immaginare come gli Stati Uniti, dopo questa presa di posizione nettissima, possano fare finta di niente nei confronti di un paese che è limitrofo all'Egitto e dove in questo momento si stanno svolgendo delle repressioni che non hanno pari in quello che avviene di sistemi di controllo e repressivi nel resto del Nord Africa e del Medio Oriente. Ma la domanda è, quando giustamente lei cita insomma, la posizione dell'amministrazione Obama, fino al punto da immaginare, tra virgolette, interventi a favore di chi in Libia, nella parte della Cirenaica, già esercita il controllo e per venire a capo una volta per sempre della liberazione totale del paese da Gheddafi e dal suo clan, fino al punto da immaginare interventi, cosa che per noi che siamo lì vicino è molto delicata, come si può immaginare. Guardi, visto l'imbarazzo reale, mi lasci dire, del governo italiano, imbarazzo reale che si vede in tutte le sedi, dall'Europa al rapporto diretto di Berlusconi, io posso capire tutto, ma insomma l'imbarazzo di questo governo di fronte alla Libia è, nel mio giudizio, eccessivo e sbagliato. Però detto questo, fino al punto da immaginare interventi, ripeto. Guardi, le dico, gli americani hanno creato da qualche anno un comando africano, l'Africom, che è il riconoscimento di fatto dell'importanza del continente africano per gli Stati Uniti. Per decenni l'Africa è stata considerata un aspetto assolutamente marginale, tant'è vero che la competenza militare era addirittura dell'EUCOM, cioè del comando militare statunitense in Europa. Gli americani hanno un programma importantissimo di cooperazione con i paesi dell'Africa subsahariana per il contenimento delle realtà salafite e jihadiste. Quindi è determinante per gli Stati Uniti non avere una Cirenaica islamizzata, nel senso dal punto di vista, sono tutti islamici ovviamente, ma dal punto di vista di ultraradicali islamici. Quindi nel momento in cui la repressione dovesse continuare in questa maniera, ho la sensazione che gli americani potrebbero premere per un'operazione di ingerenza umanitaria per levare di torno lui e individuare in qualcuno di una delle due tribù più importanti appartenente alle forze armate un referente certo. La domanda a quel punto diventa, con il passato che abbiamo avuto coloniale, i lunghi decenni prima di chiudere con un trattato che viene immediatamente naturalmente oggi riposto in discussione da quello che avviene, come se fosse stato inutile passare tanti anni per riacchiappare per il verso buono Gheddafi, noi avremmo interesse e possibilità a partecipare a quella eventuale azione oppure dovremmo assistere alla finestra semplicemente beccandocene il conto sulle nostre coste? Io, per fare alcune cose bisogna avere the guts to try, il fegato di farlo e la capacità di sostenerlo nel tempo. Non mi pare che in questo momento l'atteggiamento dell'Italia sia molto forte nei confronti della Libia, lo dimostra tristemente la maniera con la quale l'Europa ci sta trattando, almeno questa è la mia opinione. Ecco, io ringrazio Nella Margelletti perché so che ha un impegno e deve andare via, concordo sulla sua conclusione oltretutto. Io ho l'impressione che l'eccesso di divisione interna italiana non aiuti l'Italia nei confronti sia della partita dell'immigrazione, che può potentemente riesplodere come si è visto in questi giorni e probabilmente può riesplodere ancora più potentemente perché l'assenza di quel po' di controllo organizzato dalla Giamahiria sulle sue coste può potentemente rilanciare i trafficanti di carne umana che dai paesi della fascia centroafricana organizzano il commercio umano. E io credo che la divisione interna ci aiuti poco in sede europea e abbia dato la possibilità di più all'Europa e agli altri grandi paesi europei di dire adesso ve la vedete da soli. E, però detto questo è anche vero che l'imbarazzo assoluto del governo attuale, secondo me, è andato al di là della giusta misura. Io capisco la cautela, la prudenza, non ho mai capito, a dire la verità, questa diplomazia personale del Presidente del Consiglio, ma al di là di questo, e quando si è avuto a che fare come linea di continuità della politica estera italiana nella Prima Repubblica, nella Seconda Repubblica, con D'Alema, con Prodi, come con Berlusconi, scegliendo di avere un partner così complicato per tentare di risolvere i problemi rispetto al fatto che nel contrasto ne rimanevano aperti di ancora più delicati, bisogna avere netta la percezione di quando però lo si molla e di quando è giusto e necessario mollarlo e di che cosa bisogna fare a quel momento e con chi nel cambiare atteggiamento. E questo mi sembra che alla politica italiana, ma devo dire anche ai media italiani dopo i primi giorni, perché oggi si iniziano a vedere articoli sui quotidiani ispirati a una cautela significativamente maggiore di quella dei giorni scorsi, per esempio un articolo come quello di Domenico Quirico sulla Stampa, ma non è ancora l'ultimo atto, fino a questi giorni non si era ancora letto. La verità vera è che l'Italia di fronte a Gheddafi è come un po' presa da un perfido, maligno, imprevedibile, ma tutto sommato incredibilmente, misteriosamente bravo, incantatore dei serpenti. E questo purtroppo alla credibilità italiana nell'Europa, nel mondo, non aiuta per niente, perché ci sono dei momenti in cui bisogna sapere che anche il silenzio è carico o di minaccia o di strategia che lavora, e ci sono dei momenti nei quali invece la parola deve essere esplicita, tagliente e far presagire iniziative. Ed è un po' quello che manca per il complesso di interessi che ci lega a quel paese, uno dei quali, lo hanno capito tutti naturalmente, è l'energia. E allora apriamo questo secondo capitolo con Massimo Nicolazzi, amministratore delegato di Centrex e autore del Prezzo del Petrolio, un bellissimo libro, al quale chiedo subito: ha visto che sui giornali oggi, nella comprensibile gara alla rassicurazione dell'opinione pubblica, c'è una specie di gara alla minimizzazione in realtà del contributo di importazione di gas e petrolifero? È caduta la linea? Caduta la linea di Nicolazzi? Mentre me lo stanno chiamando, aggiungo qualche particolare io su questo argomento. A me pare che la linea oggi sia quella di una comprensibile ridimensionamento dell'importanza dell'importazione energetica. Si dice tutto sommato il gasdotto di cui ieri l'Eni per prudenza ha disattivato l'importazione in Italia di provenienza libica, tutto sommato è il 9%, il nostro approvvigionamento totale non è un granché. Il petrolio si dice, ma sì, in definitiva anche quello non è un grosso problema. Sul petrolio già siamo sui 500.000, dai 350.000 nei momenti di stanca fino a 500.000 barili giorno, insomma sono 50.000 tonnellate, inizia a essere più del 20% dell'approvvigionamento italiano quando vogliamo spingere sull'acceleratore dell'importazione dalla Libia. Non mi sembra proprio che sia poco. Ora andiamo in pubblicità e poi dopo con Massimo Nicolazzi approfondiamo. La mia opinione è che anche qui le scelte dell'Italia devono essere chiare. Se noi miriamo a preservare la nostra presenza, dobbiamo avere chiara l'idea con chi metterci d'accordo, però tentare di farlo, altrimenti qualunque cosa avvenga, o quei diritti noi li perdiamo, oppure chi arriva come prima cosa dice quelli erano amici di Gheddafi e li dà a qualcun altro, e in entrambi i casi credo che il rischio di rimetterci sia molto maggiore di quello di, per il momento, stare a guardare senza sapere che fare. Pubblicità. Eccoci tornati in studio. Sono molto d'accordo con l'altro articolo che trovate oggi sulla Stampa. Secondo me sta coprendo molto bene il quotidiano diretto da Mario Calabresi la vicenda libica. Trovate un secondo commento, quello di Marta Dassù, che secondo me in maniera sintetica, chiara e tagliente esprime il fatto che la Libia è da lungo tempo a questa parte una dei banchi di prova della politica estera italiana più rilevanti dal punto di vista del coinvolgimento degli interessi diretti del nostro paese, a b dal fatto che espone il livello apicale della nostra politica da sempre in questi decenni a scelte le cui conseguenze pesano molto nel giudizio che da fuori si dà sulla politica estera italiana. c'è l'aspetto naturalmente del petrolio, c'è l'aspetto dell'immigrazione. Tutto questo dovrebbe indurre la politica italiana a fare due cose che non fa regolarmente. Prima, essere compatta, cioè avere punti condivisi per essere più forti sia verso la Libia, chiunque sia al potere, fino ad oggi Gheddafi, sia nei confronti dei consessi internazionali a cui si appartiene, verso i quali siamo esposti a critiche per come ci siamo comportati e come ci comportiamo con la Libia. E questa unità la politica italiana sulla Libia non riesce mai ad averla. Riesce ad averla nella sostanza, ma attribuendo di volta in volta a chi sta all'opposizione al governo ruoli diversi da quelli che effettivamente sono stati esercitati. Questo mette nell'imbarazzo la nostra intelligence militare e civile, i nostri apparati di sicurezza, mette in imbarazzo nei momenti di difficoltà le grandi aziende che vengono indotte dalla politica di qualunque colore in realtà a coinvolgersi pesantemente in Libia. E poi, quando vengono le difficoltà, sembra quasi che lo si sia fatto per loro, invece che la politica gli abbia detto è bene farlo negli interessi del nostro paese. E questa è la prima cosa che la politica fa. La seconda cosa è avere le idee chiare di fronte ai momenti decisi delle scelte, quando bisogna capire se insistere o no nelle scelte di prima, come ho detto. Allora, rispetto all'interesse energetico, abbiamo ripristinato il collegamento con Massimo, con Nicolazzi, ripeto, amministratore delegato di Centrex, autore del Prezzo del Petrolio, per l'editore Boroli, un bellissimo libro. Nicolazzi, diciamo, si tende un po', per rassicurare, a dire ma non è così importante il rapporto di gas e petrolio della Libia. A me pare che rispetto al peso complessivo che ha nell'ENI in realtà stiamo parlando di una partita importante. La domanda che le faccio è, da questo punto di vista, vista l'importante presenza, diciamo così, all'apporto del nostro bilancio energetico e rispetto al totale degli impegni internazionali dell'ENI, se uno dovesse solo farsi guidare dalle priorità della politica energetica, come dovrebbe muoversi secondo lei nella partita libica? Innanzitutto buongiorno Giannina, grazie. Io quando sento parlare di politica energetica tendo a raccomandare più che a muoversi a stare fermi in realtà. La questione Libia ha due facce, due aspetti. La prima è una faccia gas. La faccia gas, al di là dei problemi di nostro fabbisogno energetico, è una faccia che confluisce in un'infrastruttura rigida, e cioè un tubo che arriva in Sicilia e che non può essere girato in nessun'altra direzione. Per cui vorrei dire, indipendentemente da quello che sarà l'assetto politico futuro, mi risulta difficile capire che un qualunque governo libico possa fare a meno di riempire quel tubo, anche per ragioni di reddito interno, per quello che io chiamo sempre un po' vezzosamente l'equilibrio dei bisogni, cioè il fatto che noi senza gas non facciamo elettricità, ma mediamente i paesi produttori senza vendere idrocarburi non pagano pensioni e non riescono a provvedere a necessità anche più essenziali. L'aspetto petrolio è un aspetto diverso, però quando noi parliamo delle nostre importazioni di petrolio dalla Libia stiamo in realtà parlando di un fornitore preferenziale per distanze e per caratteristiche del nostro sistema di raffinazione. Non è che noi abbiamo dei contratti di lungo periodo vincolanti con la Libia e altri abbiano dei contratti di lungo periodo vincolanti con altri paesi. Il mercato del petrolio non è un mercato che ha un'infrastruttura rigida e vincolata come può essere un tubo, è un mercato con le petroliere che vanno ovunque. Quando nel 1973 ci fu l'ultimo grande embargo dei produttori nei confronti di Stati Uniti e di Olanda, quello che praticamente successe fu che gli americani e gli olandesi si approvvigionarono con l'intermediazione di coloro che non erano colpiti da embargo. Da questo punto di vista noi in fondo stiamo parlando di quantità prodotte in più o in meno su scala mondiale e non di destinazioni vincolate su un singolo paese. Oh, dell'intera andata? Sì. Da questo punto vorrei dire che un'eventuale crisi dei rapporti con la Libia in questo momento è una crisi che rileva molto più per l'ENI in quanto tale che non per il sistema di approvvigionamento italiano nel suo complesso. E infatti questa era una delle parti della domanda. L'ENI non è esattamente agli occhi dello Stato italiano parte insignificante di ciò che induce poi alla sua scelta. Assolutamente. Senta, capisco che lei nel dircelo poi non va oltre, ma mi dà un giudizio anche complessivo un po' sintetico da questa ondata di cambiamenti in corso, Tunisia, Egitto, Libia, bisogna vedere in Bahrain che cosa succede, in realtà che cosa c'è da temere dal punto di vista degli equilibri di medio e lungo periodo, di quelli più pesanti, energetici, rispetto al fatto che tutto sommato tutto il post 11 settembre al netto di quello che uno possa pensare degli interventi in Iraq, Afghanistan e così via, ma dal punto di vista dell'impatto su domanda offerta, prezzi di equilibrio e così via, non è stato devastante, insomma è stato gestito in una maniera che non ha portato a grande crisi. La grande crisi è arrivata poi dall'intermediazione finanziaria di modello sbagliato, ma non da quello. Invece da questa ondata in corso, secondo lei che cosa bisogna attendersi? Non so, se dovessi dare una nota ottimistica, le reinfliggerei lo slogan dell'equilibrio dei bisogni, cioè penso che alla fine ci sia una dipendenza dei paesi produttori per loro stabilità e servizi interni, dalla produzione e dalla vendita di idrocarburi tale che nessuno si possa permettere volontariamente o scientemente una riduzione calcolata o politica della produzione. Ci possono essere però rispetto a questo quadro apparentemente tranquillizzante due variabili. Una prima variabile è una variabile di disperazione araba, cioè noi ci ritroviamo a paesi come l'Egitto, come l'Algeria, fortissimamente popolosi e dove in 25 anni c'è stata conurbazione intensa, c'è stato abbandono pressoché totale dell'occupazione agricola, c'è stato abbandono pressoché totale dell'occupazione. La tentazione di brandire l'arma del petrolio anche in maniera contraria a quelli che sarebbero i propri interessi economici di breve periodo, la disperazione in qualche modo può indurla in tentazione. Può essere forte, anche perché poi nel meccanismo del cambio di regime, dell'allontanamento dal potere di cricche familiari o politiche che l'hanno controllata, poiché di solito sono quelle a controllare i flussi delle royalties petrolifere e a reinvestirli all'estero e ad occultarli poi nel sistema bancario a proprio vantaggio, l'interruzione delle chiavette, per così dire, dell'export in quel caso non fa parte solo di una strategia di comprensibile rabbia e protesta, come ci diceva oggi Nicolazzi, ma è classicamente uno dei metodi attraverso cui chi prende il potere o attacca chi esercita il potere tende a voler mettere le mani nei forzieri dove vanno le royalties petrolifere. Nel caso della Libia è praticamente ciò che approvvigiona da sempre il bilancio pubblico libico e da sempre il ricco welfare libico, che diversamente dispensato alle tribù è forse anche una delle ragioni per cui per esempio in Cirenaica da sempre non passava il regime libico, con l'accusa invece alle tribù della Tripolitania di portarsi a casa per contatti con il clan Gheddafi più stretti, il più dell'impiego sociale delle royalties petrolifere. Ma insomma è uno degli aspetti da tenere presente. Nel dire, Nicolazzi, per l'ENI è molto più importante, lì ci siamo fermati, ma certo è un punto interrogativo molto forte rispetto alla politica italiana. L'altro aspetto, io ringrazio Nicolazzi, l'altro aspetto che ancora non abbiamo la capacità bene di misurare, oltre che evocarlo emotivamente ai nostri ascoltatori e lettori, è naturalmente quello dell'immigrazione, perché girano le cifre più inverosimili, chi dice 70.000, chi dice 150.000, chi dice 250.000, queste cifre naturalmente hanno un fortissimo impatto, ma si tratta di capire, sto parlando dell'immigrazione che può provenire come effetto di questa ondata, di questa tra virgolette rivoluzione, non so quanto democratica, ma insomma certo una rivoluzione forte con partecipazione di giovani che cambia improvvisamente la realtà della sponda sud del Mediterraneo di molti paesi musulmani. Immigrazione, dico, forte impatto emotivo, forte difficoltà con l'Europa, si tocca con mano, che è al vertice di domani a cui partecipa Maroni, l'Italia ci va con una posizione di incomprensione da parte degli altri paesi, posizioni molto nette di paesi come la Francia che ci hanno detto noi non ne prendiamo uno, sia ben chiaro, quindi ve la dovete vedere voi, divisioni interne, perché l'opposizione dice è colpa vostra che siete anti-europeisti, non avete concordato le misure da concordare. Ma al di là di questo, parliamone con Guido Bolaffi, che di questo scrive, è un esperto vero e appassionato anche di questioni internazionali ed europee, direttore di West. Andate a vedere il sito www.west-info.eu. Bolaffi, secondo lei che cosa dobbiamo attenderci in concreto come impatto diretto del paese e come difficoltà insieme all'Europa di affrontare questa ondata? Lei quanto, in che fenomeno, come grandezza lo quantificherebbe? Ma io sono tra coloro che, vabbè, sicuramente sarò smentito dalla realtà, ma sono assolutamente, non faccio parte del partito della grande ondata. Intendiamoci, se dovesse esplodere, adesso negli altri paesi non c'è stato, se dovesse esplodere un vero proprio genocidio, bagno di sangue, ma lì non ci troviamo di fronte a problemi migratori, ci troveremo di fronte a classici fenomeni di crisi umanitaria. La stessa cosa sarebbe se ci fosse un immenso genocidio, se ci fosse un terremoto, se ci fosse uno tsunami. Quindi non è migrazione quella, eh? Sì. Perché se noi non facciamo distinzione su questo punto, anche perché la migrazione sono processi per cui chi viene ha diritto poi ad avere un permesso e rimanere, e gli interventi di protezione umanitaria, come è noto, perché chi affoga non si chiede il documento ma si tende una mano, ma poi uno lo prende e lo porta a casa sua di nuovo, punto. Questa è la situazione. Dal punto di vista generale io credo che così come non ci sono stati milioni che venivano dalla Russia quando finiva il regime sovietico, così come non ci sono stati milioni che si paventavano quando Berlino cadeva il muro. Lei dice non ci sarà neanche questa volta. No, questo... non è che non ci sarà. No, milioni. Certamente il vero problema non sono le migrazioni da quei paesi. Esatto. Ma sono le migrazioni attraverso. Infatti la domanda è se salta quel minimo di controllo che dopo il trattato, minimo, dico, ma però insomma, c'era, la Libia aveva messo alle sue coste ai flussi di commercianti di schiavi dai paesi tipo Chad, Niger, Mali e così via, se salta che cosa succede? Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale e poi riprendiamo di qua con Bolaffi e con le voci degli ascoltatori. Eccoci tornati in studio. Bolaffi diceva: non mi aspetto, non sono del partito dell'esodo biblico. Parlo di esodo biblico perché se avete letto il Corriere della Sera o gli date un occhio troverete le parole del ministro degli esteri Frattini che dice: noi della Libia, tranne Gheddafi, sappiamo molto poco, e le proporzioni dell'ondata che si potrebbero generare, che si potrebbe abbattere sulle nostre coste, sono appunto quello di un esodo biblico. Dice invece Bolaffi, ma insomma, esodo biblico. Seconda cosa, con l'Europa, dall'incontro di domani, concretamente, che cosa è utile aspettarsi e che cosa è realisticamente invece forse concreto aspettarsi, secondo lei? C'è un punto debole. Che sono i soldi non spesi che ci abbiamo. Adesso non è che sono le cose che si ripetono a Malsalva, però insomma la Sicilia c'ha circa 20 milioni di euro di un accordo Tunisia-Sicilia per l'integrazione degli immigrati non spesi. E siccome i paesi europei sono notoriamente, come io dico, tirchi, e che contano l'euro a uno, e quando uno va lì che chiede i soldi e dice scusate ma voi non l'avete speso, anzi ce l'hai dato indietro, questo è il primo problema. Il secondo problema è che la politica europea sulla questione, anche qui se parliamo di migrazioni, dal punto di vista dell'immigrazione presenta una spaccatura micidiale, nel senso che l'accordo franco-tedesco sul no alla Bulgaria e Romania all'ingresso su Schengen, se uno lo vede bene, se la vede nella mappa geografica, si accorge che in realtà non facendo entrare a Schengen Bulgaria e Romania, che stanno a ridosso della Turchia, in realtà hanno costruito un antemurale in cui lasciano la Grecia, che è il più grande ormai passaggio di immigrazione clandestina d'Europa, la lasciano blindata. E impediscono, sì, per mare possono entrare, ma insomma per via terra la cosa è proibita. Quindi loro si interessano più di quel lato lì che del lato meridionale. Beh, Bene, quindi insomma concretamente non bisogna attendersi molto, e questo spiega un po' perché insomma la freddezza delle note con l'Europa. La mia opinione è che di fronte a questo la politica italiana dovrebbe far fronte comune. Non voglio dire che bisogna cancellare la differenza di visione, che è normale che ci sia su questioni come l'immigrazione, tra una sinistra più integrazionista, più aperta all'approccio multiculturale, e invece la maggioranza è più pronta a dire no, bisogna tutelare il sistema paese. Ma la domanda che le faccio è: quanto ha contato la divisione della politica su questo, in questa seconda repubblica, nel renderci più deboli in Europa? Secondo me ha contato, ma fino a un certo punto. Non troppo, lei dice. Fino a un certo punto, anche perché tutti sanno che Napolitano fece il primo grande accordo con la Tunisia, dando alla Tunisia le motovedette nel 98, 1998, quindi stiamo parlando. L'accordo con la Libia è un accordo che ha visto passare, credo, il pentapartito, il tripartito, sì. L'esapartito. Tutti quanti, anche se adesso fanno tutti finta di dire amico tuo, però vabbè. Appunto. E in realtà il problema vero è che su questo punto la spaccatura politica dell'Europa è micidiale, perché i paesi del nord, estremo, Svezia, Norvegia, Finlandia, cioè, che tra l'altro, bisogna stare sempre attenti, sono quelli che accolgono il più alto numero di richiedenti asilo di tutta Europa. Di asilo sì, però in Finlandia il totale degli immigrati è l'1,8%, quindi insomma non sono certo paesi che hanno questo enorme impatto, perché dal sud arriva. Appunto, sentiamo un po' di ascoltatori al volo. Sentiamo Luca da Como, come la pensa. Luca, prego, buongiorno. Salve Luca. Le porto il punto di vista di un precario della ricerca, sì, che per qualche modo è simile, se volete, a questi giovani che si stanno ribellando, con un offset di ricchezza molto maggiore. Vabbè, adesso diciamo che liberiamoci della Gelmini come Gheddafi, non lo so. Sto dicendo che comunque la situazione di un giovane io la vedo comunque compressa tra una capacità, se volete, di poter emigrare, però in condizioni non sempre agevoli, e comunque una impossibilità fondamentalmente di farsi strada nella propria nazione. E posso alla fine sottolineare il fatto che le rivolte così condotte dai giovani possono essere anche un motivo, generate da questo motivo, non soltanto da condizioni economiche dettate a livelli più alti, no? Allora, quello che posso dire io, che mi sono messo in testa, è che questo forse non è che rappresenta la fine di tutti quegli apparati di controllo sociale che idolatrano, usano fondamentalmente delle singole persone, che però sostanzialmente sono incapaci di controllare uno Stato in condizioni di crisi come quella odierna, no? E i giovani è vero che possono anche essere utilizzati, però fondamentalmente molto probabilmente non staranno neanche troppo a vedere quello che succede. Leader come, se volete, come Gheddafi, che ha fatto il bello e il cattivo tempo, anche se volete, nella politica economica europea, forse adesso in questo momento non riesce più a resistere anche una spinta sociale. E chi lo sa, Luca, perché questo è l'aspetto che lo rende molto diverso dalle crisi tunisine ed egiziane, perché la Libia, ripeto, in questa astatualità, quindi con forze armate, come abbiamo detto all'inizio, che non hanno un ruolo preciso e sono più fuori dal perimetro del regime che dentro, con un rapporto diretto tra i membri del clan e le tribù, in realtà una volta che l'ondata passa, con centinaia di morti, molto distinta tra Tripolitania e Cirenaica, chi lo sa che Gheddafi poi abbia davvero l'impossibilità di resistere? Perché questo è un criterio che negli altri paesi è più netto e più chiaro. In Libia è molto più sfuggente, secondo me. Andrea da Roma, come la pensa rapidissimamente, Andrea? Buongiorno a tutti, grazie. Io in parte condivido quello che è stato detto proprio ora, nel senso che Gheddafi alla fine si dice aerei, resiste soltanto perché noi gli diamo la possibilità di resistere. È possibile che noi italiani non siamo in grado di giocare un ruolo importante e di fare i nostri interessi alla fine. Lei direbbe dovremmo avere un ruolo più diretto, un intervento per il post Gheddafi. Ma ci mancherebbe, anche perché Ripeto, io che la penso così, che da ieri indico l'esempio di David Cameron, che è già andato in Egitto, e dico sto parlando dell'ex potenza che è la legacy coloniale in Egitto. Io penso che dovremmo farlo. Questo significa però avere le idee chiare sul dopo, sapere con chi pensare di avere contatti, affidarsi all'intelligence. La nostra intelligence militare è perfettamente in grado di spiegare a un politico chi conta nelle diverse tribù. E l'Italia però in questo esita molto, perché non ha le idee chiare su cosa ci rimette se lo fa e su cosa può difendere se non lo fa. E in questa incertezza, secondo me, si gioca molte delle carte che altri giocheranno al nostro posto. Sono stati i servizi britannici, non dimenticatelo, che nel 2003 hanno svolto il ruolo numero uno per riportare la Libia all'onore del mondo. Quelli britannici, non quelli italiani. Vediamo se non finisce allo stesso modo così. A domani, Linea Generale Radio, e grazie a tutti.